posso fare uscire. L'unico che posso fare è l'unica. Scendo un po' giù qua al giardino col cane. Io sto per farlo cagare. Va bene, e dove sei già? Sì, sto scendo adesso, sto a fare delle commissioni. Se ne esco da casa, sono più a Baltese. Dai, lascio 5 minuti, ci sentiamo dopo. Avanti, tu. Vai, qua. Tranquillo. Gianni! Ehi, dimmi, dimmi, Luca, dimmi. Non c'è nessuno? Cosa? Non c'è nessuno stamane. Stavo tutti festeggiando il lavoro. Sicuramente viene troppo. Infatti c'era su Facebook l'articolo. La festa dei disoccupati. E infatti, gli auguri sono di più per chi non ce l'ha lavoro a trovare. E allora? Penso anche a loro. Chi si sgobbano adesso, secondo me, oh già, lo sai chi è? Le televisioni, tipo Quinta Colonna, Ghis e Bu, perché un bel di parole, ma di fatti nulla. Oh, non vedi io. Ma sembra che questo regista abbia la volontà di fare qualcosa, se non è solo per farsi pubblicità. Adesso vediamo com'è la situazione, perché mi sa che molta gente lo fa per farsi pubblicità, farsi vedere impegnate e cose, ma non farsi nulla. Adesso vediamo a fatti. Questo giorno sta guardando Quinta Colonna. Come di gente entrata, gente disperata che appunto in quel programma fanno i politici. Ma non li vogliono i miei belli. Perché poi si danno la colpa uno, a uno con l'altro e non ne vogliono i più peli. Che la colpa ce l'hanno tutti, i romagni di tutti essi, e basta. Vai, spiegaglielo tu allora. Qua c'è il ritto di 5 centesimi. Qua c'è il ritto di 5 centesimi. Però, loro ti dicono perché devo rimanere lo stesso a me. Per farli vivere bene a te, invece di risolverle in altre maniere. Cioè, loro possono stare ricchi quanto vogliono, però devono fare anche guadagnare bene al lavoratore. Poi se loro guadagnano miliardi, noi guadagniamo milioni, cazzo in affutti. Ognuno ha scelto la sua strada, già loro hanno scelto la politica e noi abbiamo scelto di fare magazzinieri, muratori, eccetera, eccetera. Questa è una... la questione, come il guadagno che hanno gli attori, il guadagno che hanno i cantanti, è una scelta di vita. Se uno non è portato, intanto non l'ha fatto, non vengo da arrivare. Però non possiamo neanche dare la colpa agli attori e ai cantanti perché guadagnano un sacco di soldi. Luca, ci dovrebbe essere uno stipendio adeguato per tutti per vivere, capito? No, a uno che guadagna miliardi di euro e l'altro che muore di fame, non è giusto. Io dico dagli qualcosa in più, se lo merita, magari sanno fare qualcosa in più di te, tu non lo sai fare, l'attore, è giusto che lo faccia un altro, che prenda qualcosa in più, ma non esageratamente. Si va da un estremo all'altro. Sì, quello sì. Ma quando mai non dobbiamo vivere tutti bene? Che schifo, cazzo. Boh. Non dico che sta guadagnando, boh. Chi sta lavorando non sta bene, chi sta lavorando da privati sta approfittando di questa crisi. Allora. E avanti. No, ho fatto male, quando lunedì. Chi era Luca? Mostrate anche la parte mia. Andiamo tutti. E oggi. Buongiorno, la stazione Doppio Ru in compagnia di Luca Flipper, con chi abbiamo l'onore di parlare, avanti. Ha la ragione il collega che sono in QTH a Quarto Santelle, la provincia di Cagliari, l'operatore Claudio. Cappa Claudio, ma ti trovi a Sassari? Non fa vedere più. C'è Quarto Santelle, ah, non è possibile. No, forse a Sassari, dai. Attenzione Claudio, se ne ascolti il doppio rum dalla città di Sassari. Sì, Claudio, qua è proprio grosso di me, se mi dava calci del sticchi mi faceva male, sicuramente. Io darli a lui non ho dato, lui è un po' più basticcio di me, c'ha proprio un grosso di pesce, ne tiene quasi due. Sicché meglio che non mi dai dettagli. Ma tu dove ti trovi qua? A Sassari oppure sei a Quarto Sant'Elena? Non penso. A Pistoia. Prima che partivo, guarda. Stavo quasi partendo, l'ultima mezz'ora tu è arrivato. Era vicino, tanto. E allora c'è la propagazione, perché la zona di Cagliari è sempre molto, si arriva più all'estero che a Cagliari. Luca, non occupi la vita. Luca, sì. Non occupi la vita il Quarto Sant'Elena. Ma se la fece che sono io il Quarto Santo. Avanti. Sono io, il ricevitore. Moreno, era il figlio io, 777. No, non era lui che deve dare il calcio sulle spinche a te. E il te che tu devi dare il calcio sulle spinche a te. Hai capito Gianni, ma hai tu la Luca, non traslare, guarda che faccio i casini. Ma io sto ascoltando, non sto traslando. Vabbè, devo chiudere che mia moglie non sopporta l'apparecchio qua. Vabbè, ci sentiamo dopo Luca magari, dopo che accompagna mia moglie a casa. Sì, a Gianni, va benissimo, a dopo. Tanto attendo se rientra Claudio, o senza Gian Maria o Graziano. A te, c'è Gian Maria?